È il momento della box giudiziaria, per così dire. Mi è venuta in mente una vecchia battuta dell'avvocato Agnelli che diceva che nella vita si può scegliere se essere Tyson o Tyran. Ecco, in questo momento mi sembra che in campo c'è più Tyson che Tyran, mentre dovrebbe essere effettivamente il contrario, vista la sensibilità che c'è nel paese per tutte le vicende Fiat e visto lo sforzo che tutte le parti sociali stanno facendo per convergere verso nuovi piani positivi che rilancino lo sviluppo nel paese. Penso per esempio all'accordo sulla produttività che vede impegnate le parti sociali, Confindustria e tutti i sindacati insieme, per ora senza strappi. Diciamo che a mio giudizio ci sono state tre forzature. L'ultima è questa di Marchionne, che sostituisce, diciamo così, pretende il saldo zero nella definizione finale dell'occupazione, che è una strada ma non è l'unica. L'altra forzatura è stata la sentenza di tribunale. Non sono commentabili le sentenze, d'accordo, però è vero che i giudici hanno fatto un'incursione pesante nel distruggere, diciamo così, l'accordo sindacale che era stato fatto e hanno imposto di fatto un imponibile in mano d'opera, tra l'altro scelto per appartenenza. A questo punto non vorrei che diventasse possibile che si crei un precedente, per esempio, per i COBAS, che potrebbero rivendicare, che so, la quota percentuale di riassunzioni di loro appartenenti, o adesso per provocare i testimoni di Geova, tanto per dirne una. E questa è stata un'altra forzatura. La forzatura iniziale però è stata la presentazione del ricorso stesso da parte della FIOM, perché ha forzato quello che era stata la volontà dei lavoratori di Pomigliano, che avevano approvato l'accordo separato con un referendum.